edizione. Eccoci qui, ancora buon venerdì da Anna Miglioratti. Allora facciamo un po' di zapping TV prima di andare come sempre sulle prime pagine dei quotidiani. Allora vi faccio sentire cosa è successo ieri sera nello studio televisivo di Servizio Pubblico di Michele Santoro. Ospite c'era il senatore della Lega Roberto Castelli, in collegamento un operaio sardo. Ecco cos'è successo. Perché non c'è più lavoro? Vogliamo dircelo, perché non c'è più lavoro? Perché le aziende al nord chiudono? Ma come fai perché? A parlare così che non sai che in Sardegna si paga tutto di più, ma lo sai che le aziende, l'industria è ferma perché non c'è il gas, perché non c'è il metano, lo dovresti sapere, lo sai quanto costa una bombola di gas per famiglia lombarde, da 15 kg? Sto parlando 45 lombarde. Castelli, non rompere i coglioni a me, perché a me non me li rompi i coglioni tu, perché Castelli, un altro scontro, l'avete sentito alquanto vivace, l'aveva avuto anche con un altro operaio, questa volta siciliano. Alla fine Castelli ha abbandonato lo studio, questo è andato in onda ieri sera in TV. Prima edizione. E vedremo se creerà un po' meno proteste la fase 3 del governo Monti, perché quest'oggi è imprevisto il Consiglio dei Ministri, siamo al terzo giro di boa, alla terza rivoluzione del governo Monti, avete sentito, mentre continuano le proteste per le liberalizzazioni, dopo le pensioni, dopo le liberalizzazioni, oggi arriva la semplificazione. E già vi dico che tra l'altro il governo ha già annunciato anche una fase 4 che riguarderà il fisco, verrà semplificata l'assistenza, ma vedremo di capire più avanti cosa sarà questa fase 4. Intanto alla fase 3 al Consiglio dei Ministri di oggi sono dedicate praticamente quasi tutte le aperture oggi dei quotidiani, perché le novità anche questa volta veramente un continuo dal governo Monti, anche questa volta sono davvero tante. Allora cominciamo dal Sole 24 Ore. Famiglie e imprese, addio a 330 leggi. Sono 330 le leggi che oggi nel Consiglio dei Ministri, con un decreto legge che poi naturalmente dovrà essere ratificato, ma intanto già con un decreto legge, verranno completamente cancellate, quindi gli diremo addio. Un provvedimento a costo zero, ma che potrebbe cambiare in concreto molte cose della vita quotidiana, a cominciare, molto se ne è parlato, dell'arrivo del pane fresco anche la domenica, ma anche i certificati online in tempo reale, oneri ridotti per le piccole e medie aziende, su questo che punta soprattutto il Sole 24 Ore per oggi, di oggi. Con le nuove regole si potranno fare molti più documenti online, le anagrafi connetteranno tra di loro, i documenti avranno effetto immediato nei rapporti con la pubblica amministrazione, inoltre dovranno essere indicati tempi certi, in caso contrario sono previste sanzioni ai dirigenti pubblici. Famiglie, appunto uno dei temi della semplificazione, le imprese e il fisco, le altre due. Tra le altre cose arriva ancora la social card per un anno, con possibili interventi sul valore legale della laurea, così il Sole 24 Ore. La rivoluzione dei certificati, titola anche La Repubblica, basta attese per i documenti pubblici, così cambia il valore della laurea, una certezza invece secondo il Corriere della Sera. Oggi il decreto sulle semplificazioni, nuove regole per atenei per ricercatori, scusate, e atenei telematici, e subito i certificati online. Corriere della Sera che ci ricorda anche a centropagina che ieri sera però c'è stato un vertice su un altro tema che probabilmente richiederà tempi più lunghi, ma non lunghissimi. Vertice Monti-Fornero sul lavoro, si va avanti ma senza un documento, cancellata la famoso documento della Fornero, stampato, letto e mai consegnato alle parti sociali. Ne parleremo anche noi tra poco, però intanto si va avanti. Certificati, cambia tutto, anche il Messaggero, un tema questo che ha colpito molto i direttori di giornale. E poi invece La Stampa guarda all'Europa, perché dice pronto il decreto che cancella 300 leggi, anche qui certificati in tempo reale, cambia il valore legale delle lauree, ma il titolo d'apertura è Europa, il piano per i giovani, perché lunedì prossimo invece ci sarà il vertice europeo che a questo punta. Sulla Stampa restiamo. Scusate, ancora qualche segnalazione, qualche curiosità ancora dalle giornate, dalle prime pagine di oggi. La Stampa è il quotidiano, uno dei quotidiani che mette più in evidenza ovviamente il blitz ieri contro le violenze dei Notav l'estate scorsa in Valsusa, retata contro i Notav, 26 in manette, Caselli, fermati solo i teppisti, punite le violenze, non il movimento. Il procuratore Caselli dopo l'operazione, l'abbiamo sentito anche poco fa nell'edizione delle 6 di prima edizione di GR24. Immagine a centropagina della Stampa ci porta in Australia con la Premier in fuga dagli aborigeni, protesta per l'anniversario dell'inizio della colonizzazione. Così accade anche in Australia. Il Messaggero, anche qui vi faccio un'altra segnalazione, il dibattito è molto acceso naturalmente sul quotidiano romano per quel che riguarda le Olimpiadi di Roma del 2020, Londra, i conti che tornano, le Olimpiadi sono un affare, parla il sindaco di Londra che dice economicamente è un affare fare le Olimpiadi, così sul Messaggero che naturalmente sostiene l'operazione. E poi invece sul Corriere della Sera, fondo pagina, si parla ancora di Calciopoli, ma a parlare è Farina, il giocatore del Gubbio che ha denunciato tutto quel che stava accadendo e che dice oggi sul Corriere della Sera: chi mi proteggerà? I timori di Farina che denunciò le scommesse, così sul Corriere della Sera. Altre segnalazioni invece dalla Repubblica, parliamo ancora di Michel Martone, il viceministro che ricordate accusò di essere sfigato chi a 28 anni non aveva ancora una laurea, ebbene sono andati a fare le pulce a Repubblica Michel Martone, un concorso vinto tra i dubbi dei commissari, così anche diciamo così lo scheletro dell'armadio che ha tirato fuori in qualche modo la Repubblica, che almeno lo papa a pagina 12. E poi ancora cocaina, Ville Ferrari, il regno dei Casa Monica, l'inchiesta che pubblica invece quest'oggi la Repubblica. Ve l'abbiamo raccontato anche noi a prima edizione, anche l'altra mattina c'è stato un maxi blitz nella capitale, nei quartieri sotto controllo dei Casa Monica, questa è, scrive Repubblica, la criminalità romana, cocaina, Ville e Ferrari, c'è anche questo nella capitale. Così, sulle prime pagine dei quotidiani ancora, abbiamo ancora qualche istante. Allora vi segnalo altre due notizie. Una curiosità, una un po' più, sicuramente più una notizia, perché a centro pagina del Corriere della Sera quest'oggi trovate l'immagine, la notizia noi ve l'abbiamo data ieri, della donna scippata a Milano, caduta dalla bicicletta e ancora grave, ancora in coma. Lo scippo di Milano e la sicurezza delle donne, perché questo è il dibattito che si è aperto in queste ore, che di cui ne riporta un tassello il Corriere della Sera. E poi invece una curiosità ancora dal Messaggero: a Roma un cane su due è stressato, e allora ecco cosa si propone nella capitale: serve il patentino per i padroni. Un assaggio di quel che c'è sui quotidiani alle 7.20. Come sempre ci aspetta Alessandro Milan per spulciare un po' più nelle pagine interne. Oggi c'è molto da raccontare. Noi invece voltiamo pagina e andiamo avanti con altri temi per prevenzione. E allora l'abbiamo sentito, ve l'ho letto poco fa dal Corriere della Sera a centro pagina, c'è stato un vertice ieri sera fino a tarda sera tra il Premier Mario Monti e il Ministro del Welfare Fornero a Palazzo Chigi. Al centro del colloquio c'erano le tematiche che riguardano la riforma del mercato del lavoro. E allora per noi Giuliana Licini dell'agenzia Radiocor ha incontrato al World Economic Forum a Davos in Svizzera la presidente degli industriali Emma Marcegaglia, e anche con lei ha parlato proprio di questo. Io non ne farei tanto un problema di metodo, dell'apertura, adesso importante secondo me che si discuta veramente. Io sono abbastanza contrario che ognuno metta un documento, no? La Fornero mette un documento, la Confindustria mette un documento, il sindacato mette un documento, ognuno poi rimane, rischia di irrigidirsi sul suo documento, quindi se vogliamo fare un discorso serio, ognuno ha delle sue riflessioni e le porta. Per carità, se c'è qualche punto che noi abbiamo già in comune con i sindacati, lo possiamo proporre proporre così com'è alla ministra Fornero, però ecco, io eviterei lo scontro tra documenti, perché altrimenti rischiamo di andare, come dire, no? di non procedere come dobbiamo su una riforma che già è difficile di suo. Come vi siete dati appuntamento? Noi comunque faremo un passaggio con i sindacati, giusto per capire, per esempio sugli ammortizzatori sociali, sulla flessibilità entrata, abbiamo alcuni punti già in comune, insomma nel discorso che è uscito al primo appuntamento. Devo dire che quali sono i punti comuni? Per esempio sulla flessibilità in entrata, l'idea che non c'è, poi non è che ci c'è da irrigidire, siamo tutti d'accordo di per esempio incentivare di più l'apprendistato e anche per esempio il lavoro interinale, no? Quindi questi sono già dei punti, ma la stessa Fornero mi sembra che sia d'accordo. Sugli ammortizzatori sociali, come avete visto, diciamo, il ministro Fornero ci ha presentato un'architettura completamente nuova, ha però detto che per i prossimi 1 o 2 anni non bisogna toccare niente, perché ci sono molte, diciamo, ristrutturazioni da fare. Siamo tutti un po' d'accordo, diciamo, che i prossimi due anni non possiamo fare niente. Diciamo, i sindacati sono un po' chiusi sull'idea di una nuova architettura, noi siamo più aperti, nel senso che siamo disponibili anche a ragionare, però ecco, sul salario minimo abbiamo anche noi qualche perplessità, no? Perché in un paese, come abbiamo detto anche qui, che ha un tasso di occupazione così basso, il rischio è che appunto poi, no, tutti stiano a salario minimo. E così dunque a Davos Emma Marcegaglia, il dibattito quanto mai aperto. Guardiamo un po' anche però gli altri paesi questa mattina, perché è tempo di elezioni negli Stati Uniti, è tempo di elezioni anche in Francia. Allora i dibattiti si sprecano negli States. Nella notte c'è stato un lungo dibattito a Jacksonville, l'ultimo prima del voto in Florida per le primarie repubblicane. Protagonisti l'ex speaker della Camera Gingrich e l'ex governatore del Massachusetts Romney, che si sono attaccati per 2 ore dibattendo soprattutto sull'immigrazione e sugli investimenti, ma anche sulle colonie nello spazio, soprattutto sulla Luna, un argomento che ha monopolizzato per più di 10 minuti il dibattito americano. Dibattito che è andato in scena ieri sera anche in Francia. E quello che sentite è il dibattito televisivo ieri sera su France 2. Il candidato socialista alla presidenza francese, François Hollande, che a meno di 90 giorni dalle urne continua a volare nei sondaggi, in attesa peraltro di un candidato ufficiale a destra, si è confrontato con l'attuale ministro degli esteri Alain Juppé, uno dei pesi massimi del governo di Nicolas Sarkozy. Il primo attesissimo dibattito televisivo su France 2. 30 minuti di faccia a faccia in diretta, durante i quali il candidato socialista è apparso agguerrito e sicuro con Sarkozy, dicevamo, che invece non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. Le 6:27 minuti, vi do ancora una curiosità di quel che è successo questa notte. Sentite che è successo: 2 pacchi contenenti 16 kg di cocaina sono stati consegnati per errore nella sede delle Nazioni Unite a New York, provenienti dal Messico. Che è successo? Che i pacchi, secondo quanto ha appurato la polizia, erano stati spediti dal Messico senza indirizzo, e lo spedizioniere privato di Cincinnati che li ha ricevuti, vedendo un logo simile a quello dell'ONU, peraltro imitato in modo piuttosto grossolano, li ha recapitati al Palazzo di Vetro. Ovviamente non era lì che erano destinati. La droga ha un valore di mercato di circa 2 milioni di dollari e sono scattate le indagini. Vedremo che succederà. Prima edizione. È la giornata della memoria. 67 anni fa era il 27 gennaio quando arrivarono le truppe sovietiche dell'Armata Rossa nel campo di Auschwitz. E anche da qui partiamo oggi con Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Nel giorno della memoria parliamo del museo di Auschwitz in Polonia, dove da luglio scorso è chiuso il padiglione italiano. Noto come Blocco 21, ricorda il dramma della deportazione italiana e fu inaugurato nell'aprile dell'80 su proposta dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti. Adriana Fracchi ha intervistato Gianfranco Maris, presidente nazionale dell'ANED. Il museo di Auschwitz ha deciso, è appoggiato da tutte le autorità polacche, di chiudere il memoriale italiano per fare posto a questo memoriale, vorrei dire laico, ecumenico della deportazione, a una mostra specializzata della Shoah, perché questo, secondo le autorità museali polacche, è la funzione del campo di Auschwitz. È inutile che io discuta se è giusto o non giusto. Io ho questo ordine esecutivo di portare via il museo. Ho ricevuto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri italiani una lettera nella quale mi dice di mandargli il preventivo della spesa, che anche il Presidente del Consiglio dei Ministri decide che la cosa sia così, che cioè io sposti il Memoriale Italiano in Italia. Questa è la situazione esecutiva. Io devo spostare. L'opporsi non è più un confronto di idee. Le autorità polacche dicono che il museo di Auschwitz non è specializzato, deve essere destinato alla illustrazione delle sofferenze degli ebrei. E quindi il Memoriale Italiano, che invece è dedicato a tutti i deportati politici italiani, non ha spazio, perché racconta della lotta dei popoli, è una cosa diversa, racconta la lotta antifascista, la resistenza, eccetera, la deportazione, ma non mette a fuoco la vicenda della deportazione genocidiaria ebraica. Questo loro sostengono. Ho l'ordine preciso di portarlo via, ho una diffida che se non lo porto via me lo buttano in un magazzino. Non c'era modo di modificare o di aggiornare questo Memoriale Italiano ad Auschwitz? Non c'è nessuna possibilità, c'è un ordine esecutivo delle autorità polacche condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiani. È una grande, grandissima opera d'arte, ma noi dobbiamo postarla, punto e basta. Per ora è tutto, Italia in Controluce torna alle 13.30 per parlare ancora del giorno della memoria. Giorno della memoria, le cui celebrazioni si svolgeranno oggi in tutta Italia, in tutto il mondo, e ieri sera già vi dico che c'è stata una cerimonia davvero toccante alla sinagoga di Roma. Le voci dei sopravvissuti al campo degli stermini nazisti e poi 216 nomi, quelli dei bambini ebrei uccisi ad Auschwitz, razziati dal ghetto di Roma, pronunciati uno ad uno. È stato il momento più toccante della cerimonia, che ieri sera ha davvero riempito la sinagoga di Roma. 216 nomi scanditi ad uno. E allora io saluto questa mattina ospite con noi il presidente della comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici. Buongiorno. Buongiorno a tutti. In una giornata davvero particolare, il 27 di gennaio. Io vorrei cominciare proprio da qui, perché lei si è svegliato molto presto per essere in diretta con noi, ma quella di ieri sera è stata una serata toccante. È così? Ce la racconta? Beh, devo dire che il momento più difficile per tutti, penso, per quelle migliaia di persone che erano alla sinagoga, è stato il momento di vergogna. È un paradosso, di una delle sorelle Bucci, quelle che ormai si considerano di fatto delle gemelle, anche se hanno una 4 e l'altra 6 anni, Andra e Tatiana. Quando Tatiana ha spezzato la voce dalle lacrime, ha detto che lei si vergognava, da bambina sopravvissuta alla Shoah, di essere tornata. E questo credo che sintetizza un po' il sentimento di tutti e di quella che è stata la capacità dei nazisti di ribaltare quella che è la normalità delle prospettive di vita di ognuno di noi. E questo è un sentimento che ha logorato tanti, visto che poi alcuni, come sappiamo, anche noti, illustri come Primo Levi, decisero di togliersi la vita. E sentire dai bambini delle scuole ebraiche leggere uno ad uno i nomi di quelli senza età, di quelli di un anno, di 2 anni, fino a 10 anni, di quelli che, anche di quelli che sono stati partoriti durante il viaggio, è stato un momento, credo, altissimo, semplice, carino, non per parlare di numeri, ma per dare praticamente una dignità com'è il nome, quella dignità che hanno provato a togliere quando misero i numeri tatuati nei bracci. 67 anni fa i soldati sovietici entravano nel campo di Auschwitz. È un'eternità, è una vita, 67 anni. Però è ancora una ferita aperta sulla pelle, proprio perché c'è ancora chi c'era. È così. Guardi, è un paradosso, ma se le prendo anche il mio esempio, e non sono l'unico, la capacità dei nazisti è stata quella di entrare anche nei nostri pensieri, paradossalmente anche di quelli che non hanno mai visto un nazista, che non hanno mai subito nulla, quelli come me della mia generazione che sono nati fortunatamente in libertà, nella totale libertà. Io sono del 64 ed è ricorrente il sogno di molti di noi, l'incubo che magari entri all'improvviso, un plotone di nazisti che ti voglia portare via, lo sognano anche i miei figli, che hanno 10 anni, sono nati molto dopo. Esiste una scienza di quella che i figli e i nipoti della Shoah e i danni psicologici che hanno lasciato, il trauma dei figli della Shoah, ovvero anche dei nipoti. Provate a immaginare il trauma di chi invece ci è stato veramente. E quando l'altro giorno alla Camera, in un convegno organizzato dall'Unione delle Comunità, un altro dei sopravvissuti miei ha detto neanche una frase intera, ha solamente detto ai ragazzi: io mi auguro che voi non sogniate mai quello che sogno io ogni notte. Ma nonostante questo, ieri era anche una serata di speranza, perché affidare questo compito ai bambini ebrei e non ebrei, attenzione, il racconto, le emozioni, e far capire che noi siamo legati al futuro, cioè a quell'idea che poi ognuno di noi ha una missione nell'umanità, che è quella di portare i valori di pace, di libertà. Ed è anche quella di ricordare, ed è per quello che c'è il giorno della memoria. Io le faccio sentire una piccola pillola, poi parliamo di oggi e di domani. Domani mattina il gioco finisce, c'è la premiazione. Se non ti trovano stanotte facciamo 60 punti. Quanti punti abbiamo? Abbiamo 940 punti, più 60? 1000. Primi, vinto, eh? Sei stato un suo regalo per me. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto. Gesù. 1000 punti da schiantare, da ridere. Primi, si ritorna a casa col carro armato. Pacifici, e forse è per questo che Roberto Benigni ha rappresentato nella maniera più toccante, secondo me, tutto quello che è accaduto, proprio nel paradosso totale che ha rappresentato. E visto, come diceva lei, appunto con gli occhi di un bambino, per il quale è difficile per un adulto, ancor più per un bambino, capire l'enormità di quello che è successo. Roma, però, lei ieri sera ha detto ci ha fatto un regalo. È vero, forse, che si è anche commosso, perché si è deciso finalmente che sorgerà a Villa Torlonia il museo della Shoah. Era ora? Beh, l'Italia, il paese che ha partorito il fascismo, era uno dei pochi paesi in Europa che non è dotata. E quindi finalmente l'iter, che era quello legato poi alla disponibilità economica e finanziaria, per poi consentire al Comune di mettere immediatamente, di aprire il bando di gara pubblica per realizzare il progetto del Museo della Shoah a Roma, Villa Torlonia, è finalmente arrivato. E credo che questo sia importante anche perché, come proviamo a raccontare sempre, è vero che oggi siamo il paese, e io da italiano ne sono orgoglioso, che più di ogni altro in Europa e forse nel mondo promuove iniziative, dibattiti, specialmente nelle scuole, a tutti i livelli. Questa mattina andremo per esempio al Quirinale, paradossalmente a compimento non della giornata della memoria, ma di un mese intenso. È anche vero però che è il paese che ha partorito il fascismo, che è stato responsabile. Noi abbiamo sentito poco fa in Italia in Controluce che però il padiglione italiano ad Auschwitz l'ha chiuso, quindi forse posso magari dire, qualche attenzione in più. Sì. Se posso dire la mia opinione, Fortunatamente l'hanno chiuso. Perché? Non vorrei essere... No, invece... Non vorrei lanciare una provocazione. Perché? Perché quello, secondo me, è il padiglione della vergogna. Perché è il padiglione di come l'Italia non è stata capace di elaborare un suo memoriale ad Auschwitz. Mi dispiace di offendere molte persone, ma io li invito a verificare quello che hanno fatto gli altri paesi. La Francia, l'Olanda. Andate a vedere la bellezza, la luce, la capacità di trasmettere qualche cosa. Noi abbiamo un'opera probabilmente figlia dei tempi in cui venne realizzata negli anni 70, che certamente va conservata, portiamola da qualche parte in Italia e sfruttiamo quello spazio che viene dato all'Italia per raccontare tutto l'iter della persecuzione, così come hanno fatto per esempio i francesi, che ripeto, come gli italiani, hanno collaborato con l'occupante nazista. Proviamo a rendere quel posto luminoso, ma luminoso di documenti veri, non di un'opera che... Insomma, meno dibattiti e forse è il momento di più concretezza, insomma, più fatti. Noi facciamo appello al governo italiano affinché raccolga le istanze di coloro che vogliono conservare quell'opera di quegli anni che venne posata ad Auschwitz, figlia, ripeto, di un'epoca che non c'è più, quello che chiede conservarla da qualche parte in Italia, di ospitarla in qualche posto, facciamola vedere tra le opere artistiche di qualcuno, portiamo, ma non è un memoriale. Portiamola è un memoriale. In Italia e rifacciamo tutto quel che accade. Assolutamente. Grazie davvero per essere stato con noi. Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica romana, l'appuntamento è al Quirinale. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti. Prima edizione. E noi torniamo con il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli, buongiorno. Buongiorno a voi tutti e radioascoltatori. Sono ore importanti, oltre che per le ricerche che naturalmente continuano, per l'isola del Giglio dopo il naufragio della Concordia, perché parte invece l'operazione nelle prossime ore, tra oggi e domani, di prelievo del carburante. Ha timori per la costa, sindaco? Dunque, è una domanda che mi sono posto fin dal primo momento della tragedia, una domanda che chiaramente richiama grandi preoccupazioni, grandi perplessità, che però dal mio punto di vista e penso di esprimere anche quello della comunità è sopito e diciamo così attenuato da quelle che sono l'impegno, le professionalità messe in campo in queste operazioni e anche in questo momento stanno realizzando le prime aperture, i primi fori che consentiranno di trasferire il carburante, visto che lo stiamo aspettando da qualche giorno, nei modi, nei termini per cui possa essere evitato un probabile danno ambientale. Lei però qualche paura ce l'ha? Sì, qualche timore ce l'ho, però ripeto, è un timore. La professionalità che è tanta, insomma. È tanta, si arriva dal senso di responsabilità il timore, ovviamente, però ripeto. Naturalmente con il tutto meglio. Il rispetto per le vittime e per tutto il resto, però diciamo c'è anche questo versante che per voi è importante. Le inchieste vanno avanti, Verusi ha detto ci vorrà tempo, si è detto se si fosse agito prima non ci sarebbero state vittime, questi sono tutti altri discorsi. Dal punto di vista invece suo, dell'isola del Giglio, come si stanno vivendo ormai queste ore? Qual è adesso la paura maggiore e il pensiero più forte? Dunque, io direi che è ancora un momento in cui ci siamo addormentati da quella notte e non ci siamo ancora risvegliati, perché stiamo ancora impegnati, non solo il sottoscritto, ma anche molti della comunità che dai primi momenti avevano così con una gara di solidarietà, si erano impegnati nel soccorrere quei poveri malcapitati, superstiti che sono stati, lo ripeto, 4.200, quindi tanta gente che si è riusciti a salvare, forse avremmo potuto fare di più se l'allarme fosse stato dato in qualche maniera, in modo tempestivo. Le preoccupazioni sono quelle della stagione. Però ripeto, secondo mio parere è molto prematuro poter parlare della stagione e quindi ci vorranno ancora qualche altro giorno per vedere come si evolvono le operazioni e cosa poi verrà stabilito per quello che riguarda la rimozione della nave, quindi altro aspetto molto importante. Si è un po' pentito in qualche modo, se tornasse indietro magari non ringrazierebbe per gli inchini e direbbe evitateli? no, anche la storia degli inchini non è vera, quindi è stata assolutamente inventata da probabilmente anche dal comandante Schettino, che mi sembra che non sia poco opportuno e neanche rispettoso nei confronti anche delle vittime e anche della comunità gigliese parlare di inchino, perché questa storia non è mai stata così. La parola che ho, un termine che ho conosciuto in questi giorni, si parla di saluto, no, di accostamenti che le navi, io penso non solo Costa, ma dal mio punto di vista ricordo solo quello di cui ero informato il 14 d'agosto dello scorso anno, cioè del 2011, la Costa si avvicinò, la compagnia me lo fece sapere, la capitaneria di porto era informata, io ebbi modo l'indomani di avere una breve corrispondenza con il capitano. Lei dice tutto, di tutto il resto noi non ne sapevamo nulla. No, assolutamente, nel mese di gennaio, insomma, se avessi saputo una cosa del genere l'avrei sconsigliata, soprattutto perché siamo un'isola che vive di una tranquillità, di una serietà, siamo privi di turismo in quel periodo. Grazie, allora, come dicevamo stanno cominciando le operazioni, vedremo che succederà nelle prossime ore. Grazie nel frattempo al sindaco del Giglio, Sergio Grazie Ortelli, voi, buona giornata. Terminiamo qui, qualche minuto di ritardo, ma partirà tra pochissimo GR24 come sempre. Grazie a Viola Bottoni, grazie a Peter Bescapè, da Anna Migliorati, buon venerdì, ci risentiamo tra poco.